pasarás. La tua vita stai lasciando andar. Un'altra volta ancora di più di questa cazzo di città. Bicchiere vuoto svuoterò senza più niente sul pensar. Qualche questa notte finirà in mezzo a gente che non sa che cazzo dice e cosa fa. Vivo che lì niente ne vai. E questa gente resta qua. Di meno peggio vincerà. Parole, promesse, non me ne frega un cazzo. Ricordi, gli amici, è quello che mi resta. Qualche questa vita passerà. Che cosa resta già lo so. Tanta gente capirà che la sua tomba è abilità. E anche stanotte finirà. Bicchiere pieno insieme a voi. Parole, promesse, non me ne frega un cazzo. Ricordi, gli amici, è quello che mi resta. E una nuova alba arriverà con quel che resta avanti a noi. A bianco riusciremo a costruire un mondo che senza sfruttati e nuovi eroi vincere posso riempire.